Ad alta voce. Lucia Poli legge I Promessi Sposi di Alessandro Manzoni. Così, tornando a noi, due erano stati, alla fin dei conti, i frutti principali della sommossa. Guasto e perdita effettiva di viveri, nella sommossa medesima. Consumo, finché durò la tariffa, largo, spensierato, senza misura, a spese di quel poco grano che pur doveva bastare fino alla nuova raccolta. A questi effetti generali s'aggiunga quattro disgraziati impiccati come capi del tumulto, due davanti al forno delle grucce e due in cima della strada dove era la casa del vicario di provvisione. Del resto, le relazioni storiche di quei tempi sono fatte così a caso che non ci si trova neppure la notizia del come e del quando cessasse quella tariffa violenta. Se in mancanza di notizie positive è lecito propor congetture, noi incliniamo a credere che sia stata abolita poco prima o poco dopo il 24 di dicembre, che fu il giorno di quell'esecuzione. E in quanto alle gride, dopo l'ultima che abbiamo citata del 22 dello stesso mese, non ne troviamo altre in materia di grasce. Siano esse perite o siano sfuggite alle nostre ricerche, ossia finalmente che il governo, disanimato se non ammaestrato dall'inefficacia di quei suoi rimedi e sopraffatto dalle cose, le abbia abbandonate al loro corso. Troviamo bensì nelle relazioni di più di uno storico, inclinati come erano più a descrivere grandi avvenimenti che a notarne le cagioni e il progresso, il ritratto del paese e della città principalmente nell'inverno avanzato e nella primavera, quando la cagion del male, la sproporzione cioè tra i viveri e il bisogno, non distrutta anzi accresciuta da rimedi che ne sospesero temporariamente gli effetti e neppure da un'introduzione sufficiente di granaglie estere, alla quale ostavano l'insufficienza dei mezzi pubblici e privati, la penuria dei paesi circonvicini, la scarsezza, la lentezza e i vincoli del commercio e le leggi stesse tendenti a produrre e mantenere il prezzo basso, quando, dico, la cagion vera della carestia, o per dir meglio, la carestia stessa, operava senza ritegno e con tutta la sua forza. Ed ecco la copia di quel ritratto doloroso. A ogni passo botteghe chiuse, le fabbriche in gran parte deserte, le strade un indicibile spettacolo, un corso incessante di miserie, un soggiorno perpetuo di patimenti. Gli accattoni di mestiere, diventati ora il minor numero, confusi e perduti in una nuova moltitudine, ridotti a litigar l'elemosina con quelli talvolta da cui in altri giorni l'avevano ricevuta. Garzoni e giovani licenziati da padroni di bottega che, scemato o mancato affatto il guadagno giornaliero, vivevano stentatamente degli avanzi e del capitale. Dei padroni stessi per cui il cessare delle faccende era stato fallimento e rovina. Operai e anche maestri d'ogni manifattura e d'ogni arte, delle più comuni come delle più raffinate, delle più necessarie come di quelle di lusso, vaganti di porta in porta, di strada in strada, appoggiati alle cantonate, accovacciati sulle lastre, lungo le case e le chiese, chiedendo pietosamente l'elemosina, o esitanti tra il bisogno e una vergogna non ancora domata, smunti, spossati, rabbrividiti dal freddo e dalla fame nei panni logori e scarsi, ma che in molti serbavano ancora i segni di un'antica agiatezza, come nell'inerzia e nell'avvilimento compariva non so quale indizio d'abitudini operose e franche. Mescolati tra la deplorabile turba e non piccola parte di essa, servitori licenziati da padroni caduti allora dalla mediocrità nella strettezza o che quantunque facoltosissimi si trovavano inabili in una tale annata a mantenere quella solita pompa di seguito. E a tutti questi diversi indigenti s'aggiunga un numero d'altri avvezzi in parte a vivere del guadagno di essi: bambini, donne, vecchi, aggruppati con loro antichi sostenitori o dispersi in altre parti all'accatto. C'eran pure, e si distinguevano ai ciuffi arruffati, ai cenci sfarzosi e anche a un certo non so che nel portamento e nel gesto, a quel marchio che le consuetudini stampano su visi, tanto più rilevato e chiaro quanto più sono strane, molti di quella genia dei bravi che, perduto per la condizione comune quel loro pane scellerato, ne andavano chiedendo per carità. Domati dalla fame, non gareggiando con gli altri che di preghiere, spauriti, incantati, si strascicavano per le strade che avevano per tanto tempo passeggiate a testa alta, con sguardo sospettoso e feroce, vestiti di livree ricche e bizzarre, con gran penne, guarniti di ricche armi, attillati, profumati, e paravano umilmente la mano che tante volte avevano alzata insolente a minacciare o traditrice a ferire. Ma forse il più brutto e insieme il più compassionevole spettacolo erano i contadini, scompagnati a coppie, a famiglie intere, mariti, mogli con bambini in collo o attaccati dietro le spalle, con ragazzi per la mano, con vecchi dietro, alcuni che, invase e spogliate le loro case dalla soldatesca alloggiata lì o di passaggio, ne erano fuggiti disperatamente, e tra questi ce n'era di quelli che, per far più compassione e come per distinzione di miseria, facevano vedere i lividi e le margini dei colpi ricevuti nel difendere quelle loro poche ultime provisioni o scappando da una sfrenatezza cieca e brutale. Altri, andati esenti da quel flagello particolare, ma spinti da quei due, da cui nessun angolo era stato immune, la sterilità e le gravezze, più esorbitanti che mai per soddisfare a ciò che si chiamava i bisogni della guerra, erano venuti, venivano alla città come a sede antica e ad ultimo asilo di ricchezza e di pia munificenza. Si potevano distinguere gli arrivati di fresco, più ancora che all'andare incerto e all'aria nuova, a un fare maravigliato e indispettito di trovare una tal piena, una tale rivalità di miseria, al termine dove avevano creduto di comparire oggetti singolari di compassione e da attirare a sé gli sguardi e i soccorsi. Gli altri, che da più o men tempo giravano e abitavano le strade della città, tenendosi ritti con sussidi ottenuti o toccati come in sorte, in una tanta sproporzione tra i mezzi e il bisogno, avevano dipinta nei volti e negli atti una più cupa e stanca costernazione. Vestiti diversamente quelli che ancora si potevano dir vestiti, e diversi anche nell'aspetto: facce dilavate del basso paese, abbronzate del pian di mezzo e delle colline, sanguigne di montanari, ma tutte affilate e stravolte, tutte con occhi incavati, con i sguardi fissi tra il torvo e l'insensato, arruffati i capelli, lunghe irsute le barbe, corpi cresciuti e indurati alla fatica, esausti ora dal disagio. Raggrinzata la pelle sulle braccia duste e sugli stinchi e sui petti scarniti che si vedevano di mezzo ai cenci scomposti. E diversamente, ma non meno doloroso di questo aspetto di vigore abbattuto, l'aspetto d'una natura più presto vinta, d'un languore e d'uno sfinimento più abbandonato nel sesso e nell'età più deboli. Qua e là per le strade, rasente ai muri delle case, qualche po' di paglia, pesta, trita e mista di immondo ciarpume. E una tal porcheria era però un dono e uno studio della carità, erano covili apprestati a qualcheduno di quei meschini per posarci il capo la notte. Ogni tanto ci si vedeva anche di giorno giacere o sdraiarsi taluno a cui la stanchezza o il digiuno aveva levate le forze e tronche le gambe. Qualche volta quel tristo letto portava un cadavere. Qualche volta si vedeva uno cader come un cencio all'improvviso e rimaner cadavere sul selciato. Accanto a qualcheduno di quei covili si vedeva pure chinato qualche passeggero o vicino, attirato da una compassione subitanea. In qualche luogo appariva un soccorso ordinato con più lontana previdenza, mosso da una mano ricca di mezzi e avvezza a beneficare in grande. Ed era la mano del buon Federigo. Aveva scelto 6 preti, nei quali una carità viva e perseverante fosse accompagnata e servita da una complessione robusta. Li aveva divisi in coppie e ad ognuna assegnata una terza parte della città da percorrere, con dietro facchini carichi di vari cibi, da altri più sottili e più pronti ristorativi e di vesti. Ogni mattina le 3 coppie si mettevano in strada da diverse parti, s'avvicinavano a quelli che vedevano abbandonati per terra e davano a ciascheduno aiuto secondo il bisogno. Taluno, già agonizzante, non più in caso di ricevere alimento, riceveva gli ultimi soccorsi e le consolazioni della religione. Agli affamati dispensavano minestra, ova, pane, vino. Ad altri, estenuati da più antico digiuno, porgevano consumati, stillati, vino più generoso, riavendoli prima, se faceva di bisogno, con cose spiritose. Insieme distribuivano vesti alle nudità più sconce e più dolorose. Non c'è bisogno di dire che Federigo non restringeva le sue cure a queste estremità di patimenti, né l'aveva aspettata per commuoversi. Quella carità ardente e versatile doveva tutto sentire, in tutto adoperarsi, accorrere dove non aveva potuto prevenire, prender, per dir così, tante forme in quante variava il bisogno. Infatti, radunando tutti i suoi mezzi, rendendo più rigoroso il risparmio, mettendo mano a risparmi destinati ad altre liberalità divenute ora di un'importanza troppo secondaria, aveva cercato ogni maniera di far danari per impiegarli tutti in soccorso degli affamati. Aveva fatte gran compre di granaglie e spedita ne una buona parte ai luoghi della diocesi che ne erano più scarsi, ed essendo il soccorso troppo inferiore al bisogno, mandò anche del sale, con cui, dice raccontando la cosa il Ripamonti, l'erbe del prato e le cortecce degli alberi si convertono in cibo. Granaglie pure e danari aveva distribuiti ai parrochi della città. Lui stesso la visitava quartiere per quartiere, dispensando elemosine, soccorriva in segreto molte famiglie povere. Nel palazzo arcivescovile, come attesta uno scrittore contemporaneo, il medico Alessandro Tadino, in un suo ragguaglio che avremo spesso occasione di citare andando avanti, si distribuivano ogni mattina 2000 scodelle di minestra di riso. Ma questi effetti di carità, che possiamo certamente chiamar grandiosi quando si consideri che venivano da un solo uomo e dai soli suoi mezzi, già che Federico ricusava per sistema di farsi dispensatore delle liberalità altrui. Questi, insieme con le liberalità d'altre mani private, se non così feconde pur numerose, insieme con le sovvenzioni che il Consiglio dei Decurioni aveva decretate, dando al Tribunal di Provisione l'incombenza di distribuirle, erano ancora poca cosa in paragone del bisogno. Mentre ad alcuni montanari vicini a morir di fame veniva per la carità del cardinale prolungata la vita, altri arrivavano a quell'estremo. I primi, finito quel misurato soccorso, ci ricadevano. In altre parti non dimenticate, ma posposte, come meno angustiate da una carità costretta a scegliere, l'angustia diveniva mortali. Per tutto si periva, da ogni parte s'accorreva alla città. qui 2 migliaia mettiamo, d'affamati più robusti ed esperti a superar la concorrenza e a farsi largo, avevano acquistata una minestra, tanto da non morire in quel giorno. Ma più altre migliaia rimanevano indietro, invidiando quei, diremo noi, più fortunati, quando tra i rimasti indietro c'erano spesso le mogli, i figli, i padri loro. E mentre in alcune parti della città alcuni di quei più abbandonati e ridotti all'estremo venivano levati di terra, rianimati, ricoverati e provveduti per qualche tempo, in cent'altre parti altri cadevano, languivano o anche spiravano, senza aiuto, senza refrigerio. Tutto il giorno si sentiva per le strade un ronzio confuso di voci supplichevoli. La notte un sussurro di gemiti, rotto di quando in quando da alti lamenti scoppiati all'improvviso, da urli, da accenti profondi di invocazione che terminavano in strida acute. È cosa notabile che, in un tanto eccesso di stenti, in una tanta varietà di querele, non si vedesse mai un tentativo, non ne scoppiasse mai un grido di sommossa. Almeno non se ne trova il minimo cenno. Eppure, tra coloro che vivevano e morivano in quella maniera, c'era un buon numero d'uomini educati a tutt'altro che a tollerare. C'erano centinaia di quei medesimi che il giorno di San Martino s'erano tanto fatti sentire. Né si può pensare che l'esempio dei 4 disgraziati che ne avevano portata la pena per tutti fosse quello che ora li tenesse tutti a freno. Qual forza poteva avere non la presenza, ma la memoria dei supplizi sugli animi di una moltitudine vagabonda e riunita che si vedeva come condannata a un lento supplizio che già lo pativa. Ma noi uomini siamo in generale fatti così. Ci rivoltiamo sdegnati e furiosi contro i mali mezzani e ci curviamo in silenzio sotto gli estremi. Sopportiamo, non rassegnati, ma stupidi, il colmo di ciò che da principio avevamo chiamato insopportabile. Il voto che la mortalità faceva ogni giorno in quella deplorabile moltitudine veniva ogni giorno più che riempito. Era un concorso continuo, prima da paesi circonvicini, poi da tutto il contado, poi dalle città dello Stato, alla fine anche da altre. E intanto, anche da questa, partivano ogni giorno antichi abitatori, alcuni per sottrarsi alla vista di tante piaghe, altri vedendosi, per dir così, preso il posto da nuovi concorrenti d'accatto, uscivano a un'ultima disperata prova di chieder soccorso altrove, dove si fosse, dove almeno non fosse così fitta e così incalzante la folla e la rivalità del chiedere. Si incontravano nell'opposto viaggio o questi o quei pellegrini, spettacolo di ribrezzo gli uni agli altri. E saggio doloroso, augurio sinistro del termine a cui gli uni e gli altri erano incamminati. Ma seguitavano ognuno la sua strada, se non più per la speranza di mutar sorte, almeno per non tornare sotto un cielo divenuto odioso, per non rivedere i luoghi dove avevano disperato. Se non che taluno, mancandogli affatto le forze, cadeva per la strada e rimaneva lì, morto. Spettacolo ancor più funesto ai suoi compagni di miseria, oggetto d'orrore, forse di rimprovero agli altri passeggeri. «Vidi io», scrive Ripamonti, «nella strada che gira le mura, il cadavere d'una donna. Le usciva di bocca dell'erba, mezza rosicchiata, e le labbra facevano ancora quasi un atto di sforzo rabbioso. Aveva un fagottino in spalla e attaccato con le fasce al petto un bambino che piangendo chiedeva la poppa. Ed erano sopraggiunte persone compassionevoli, le quali, raccolto il meschinello di terra, lo portavan via, adempiendo così intanto il primo uffizio materno. quel contrapposto di gale e di cenci, di superfluità e di miseria, spettacolo ordinario dei tempi ordinari, era allora affatto cessato. I cenci e la miseria erano quasi per tutto. E ciò che se ne distingueva era appena un'apparenza di parca mediocrità. Si vedevano i nobili camminare in abito semplice e dimesso, o anche logoro e gretto. Alcuni, perché le cagioni comuni della miseria avevano mutata a quel segno anche la loro fortuna o dato il tracollo a patrimoni già sconcertati, gli altri o che temessero di provocare col fasto la pubblica disperazione o che si vergognassero di insultare alla pubblica calamità. Quei prepotenti odiati e rispettati, soliti a andare in giro con uno strascico di bravi, andavano ora quasi soli, a capo basso, con visi che parevano offrire e chieder pace. Altri, che anche nella prosperità erano stati di pensieri più umani e di portamenti più modesti, parevano anch'essi confusi, costernati e come sopraffatti dalla vista continua d'una miseria che sorpassava non solo la possibilità del soccorso, ma direi quasi le forze della compassione. Chi aveva il modo di far qualche elemosina doveva però fare una trista scelta tra fame e fame, tra urgenze e urgenze. E appena si vedeva una mano pietosa avvicinarsi alla mano d'un infelice, nasceva all'intorno una gara d'altri infelici. Coloro a cui rimaneva più vigore si facevano avanti a chieder con più istanza. Gli estenuati, i vecchi, i fanciulli alzavano le mani scarne, le madri alzavano e facevano vedere da lontano i bambini piangenti, mal rivoltati nelle fasce cenciose e ripiegati per languore nelle loro mani. Lucia Poli ha letto I promessi sposi di Alessandro Manzoni.